Alessandra com'è? Gerusalemme bella come Tirza, terribile come Schiera. Avessi li spiegati, figlia di principe, i tuoi fianchi sono come monili. Opere di mano d'artista, il tuo corpo è un mucchio di grano, i tuoi seni come cerbiati, il tuo collo è una torre d'avorio, i tuoi occhi come laghi di Chesmo, presso Batrabim, Batrabim. Di delizie, il tuo corpo rassomiglia a una palma e i tuoi seni a grappoli. Ho detto salirò sulla palma e coglierò quei frutti fino a quando ne sarò sazio. Sei tu che come l'aurora sorgi bella come la luna, fulgida come il sole, bella come un ciglio fra i cardi. Non lo so, ma il desiderio mi ha posto sui carri di Amminadib, Amminadib.